Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. La nascita della banca moderna a Napoli, una prospettiva comparativa. Questo è il tema di un importante convegno internazionale che si è svolto dal 15 al 17 giugno alla Fondazione Banco di Napoli, sede dell'Archivio Storico, con al centro la ricerca dei tratti identitari degli attuali istituti di credito, che, come emerso nel corso del convegno, affondano le radici nel 600 e proprio nel capoluogo campano. Ne parliamo questa sera con Adriano Giannola, presidente dell'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, la Svimez. Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera a lei. Allora, ascoltiamo prima di tutto questo passaggio tratto dall'articolo che lei ha scritto per Il Sole 24 Ore il 16 giugno. Perché i banchi napoletani sono fondatori della banca moderna? Per tre elementi sui quali ha aperto i lavori l'economista Lilia Costabile, alla luce delle analisi dell'imponente letteratura storica e delle ricerche svolte con l'archivista Edoardo Nappi su carte contabili e patrimoniali nelle 300 sale dell'archivio. I tratti identitari della banca moderna che maturano a Napoli sono una circolazione cartacea basata sulle fedi di credito, il primo esempio al mondo di deposito bancario circolante, la capacità di accrescere il volume della moneta in circolazione attraverso la creazione di credito, l'introduzione dello scoperto di conto corrente, anticipando al 1612 quanto finora attribuito per il 1728 alla Royal Bank of Scotland. I banchi, dunque, sono protagonisti pazienti e scrupolosi e portatori di fondamentali innovazioni finanziarie. Altro elemento identitario è la loro nascita da istituzioni filantropiche. Ciò li distingue per governo e prassi operativa dalle banche a fini di lucro. La filantropia a Napoli apre le porte al credito. Ne deriva una matrice mutualistica del tutto originale, esportata in Europa, diversa da quelle orientate al profitto, ma anche dal mutualismo delle società cooperative, oggi banche popolari e di credito cooperativo. Un mutualismo bene pubblico che caratterizzerà dal 1861 la storia del Banco di Napoli, diventato poi istituto di credito di diritto pubblico, il cui bilancio sarà fino al 1991 bilancio di fondazione. Allora, professor Giannola, nel corso del convegno è emerso con chiarezza che la fiducia è alla base dell'affermazione dei banchi napoletani. Ecco, perché le fedi di credito, come si chiamavano allora, venivano accettate come mezzo di pagamento dai venditori di beni e servizi? Appunto, perché chiunque ricevesse la fede di credito aveva la garanzia che quella fede di credito, quello che era scritto, cioè il valore e il riconoscimento in termini allora in moneta d'argento, in ducati, eventualmente avessero voluto riscuoterli dal banco, non dipendeva più da chi aveva firmato quella fede, ma dipendeva dal banco che aveva emesso quella fede, che si assumeva la responsabilità e quindi garantiva la copertura di quella fede e a vista avrebbe pagato in argento o accreditando il conto diciamo del portatore della fede. Quindi era una cosa che faceva sì che il rapporto tra persone fosse garantito da una superiore e istituzionale garanzia. E questa a sua volta, questa garanzia data dall'emittente, che era il banco pubblico a sua volta posseduto e quindi che faceva capo normalmente a una grande istituzione, chiamiamola filantropica mutualistica, quali erano gli ospedali, il Monte dei Pegni e tutte queste istituzioni che a Napoli di fatto danno luogo poi alla creazione delle banche di proprietà appunto di queste istituzioni mutualistiche che avevano un patrimonio e in qualche modo questo patrimonio, sia pure non formalmente, era un'ulteriore garanzia. Non era solo l'argento che veniva depositato, ma implicitamente c'era anche il patrimonio in solido a questo metallo che era la moneta di allora. Ecco, ma quali sono gli elementi di maggiore attualità che derivano dall'esperienza dei banchi napoletani? Ma io lavorandoci mi sono convinto, e poi questo diciamo, è un quesito che rimane aperto, che spero prima o poi di poter risolvere, che l'attualità è che le banche attuali, quelle che restano le più solide, le più importanti banche italiane, sono esattamente i banchi, hanno un modello che è esattamente identico a quello dei banchi pubblici napoletani, con una variante, che laddove i banchi pubblici napoletani erano l'origine poi dei banchi, cioè le istituzioni filantropiche, quelle che venivano definite le case sante, cioè gli ospedali, gli orfanotrofi che raccoglievano le donazioni e così via, che avevano questi grandi patrimoni che li portano a costruire banche, erano un tutt'uno con la banca. Oggi le fondazioni bancarie non sono un tutt'uno con la banca, sono però giuridicamente, adesso passatemi questa approssimazione, le proprietarie delle banche attraverso la partecipazione azionaria. Quella partecipazione è costruita, diciamo pure, artificialmente con la legge Amato-Carli. E infatti, a proposito delle fondazioni, all'attualità del modello dei banchi pubblici ci riporta proprio nel 1990 la legge Amato-Carli. Esatto. Sì. Che io dico, il mio quesito è, fu una riforma che preterintenzionalmente ricostruì, si rifece dopo secoli e evidentemente rivisitandola in chiave moderna a quella esperienza, o è la forza delle cose italiane che ci ha riportato a quell'esperienza? Questo sarebbe un quesito molto interessante da porre in questo caso al presidente Amato, che forse certo. Ci potrebbe, però ricordiamoci che il presidente Amato a un certo punto disse: io ho creato un Frankenstein. Non so se si ricorda, ci fu un momento in cui ci fu questa folgorazione, dice: ma che cosa ho fatto? Ho creato un Frankenstein. Invece no, ha creato qualcosa di estremamente originale. Sì. E che è l'origine della banca moderna. E lui, a proposito del sistema precedente, coniò il termine di foresta pietrificata. Esatto. Se non ricordo foresta male, pietrificata. Lui intervenne sulla foresta pietrificata, la riattivò e creò questa cosa. E quindi anche poi la demonizzazione, per certi versi le critiche sono perfettamente opportune, ma la demonizzazione delle fondazioni come qualcosa di strano e anomalo, da chi sono state fatte queste demonizzazioni, sono un segno della scarsa, come dire, visione storica e soprattutto della nostra esperienza storica delle banche moderne. Sì. Che hanno radici così antiche, così nobili, perché in qualche modo io lì ho ricordato che chi decantò questo modello negli anni 30 fu un personaggio che poi pagò caramente questa sua dedizione. Allora lui parlava del Monte dei Paschi, era Ezra Pound, quando disse: i banchi pubblici sono un'altra cosa dalla banca di San Giorgio, che era questo insieme di creditori, lui li chiama pitiless, che non hanno pietà, cioè gridi, cioè avidi, mentre i banchi napoletani, lui aveva in mente il Monte dei Paschi, che era un altro banco pubblico, hanno questa visione del bene comune e quindi del credito come qualcosa che deve essere un patrimonio al servizio della collettività, che è poi l'articolo 47 della Costituzione. Certo, e poi l'ultima questione che voglio trattare con lei, professor Giannola, è l'intervento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sì, che ha chiuso i lavori del convegno. Anche questo è stato un momento molto importante a proposito delle banche. Ecco, come... E ne siamo grati, perché in effetti ha fatto una bella lezione intervenendo proprio su questi argomenti. Insomma. Sì. E anche perché poi il mondo è cambiato non poco rispetto a quell'esperienza. Però in fondo la centralità del sistema del credito anche oggi, seppur con molti episodi di crisi, non viene messo in discussione. No, il convegno è anche interessante, se mi permette, per un'altra cosa, perché del primo giorno proprio il contributo della professoressa Costabile si concentrava molto sull'analisi della crisi bancaria che i banchi ebbero nel 1612-20, se non ricordo esattamente le date. E analizzando quell'esperienza, cosa emerge? Emerge esattamente quale fu la risoluzione, quella che oggi si chiama, no, terapia di risoluzione delle crisi, fu proprio esattamente parallela. Ci fu un bail-in, cioè addossando ai depositanti una parte del costo, poi ci fu un bail-out, quindi lo Stato si fece carico attraverso un imposto speciale di sostenere le banche, e quindi ci fu poi una rivalutazione, una manovra di politica monetaria. Quindi curiosamente c'è stato un parallelo che è estremamente moderno, andandosi a leggere, così come poi altri gli hanno parlato delle crisi, non so, Amsterdam, cioè la finanza in qualche modo si ripete, magari in forme sofisticatissime, ma poi il cuore è sempre quello. In forme sofisticate, in contesti diversi, alla fine nulla di nuovo sotto il sole. Nulla di nuovo sotto il sole. I napoletani in qualche modo rappresentano un po' il sole in quel momento. Esattamente, in tutti i sensi. Esatto. Professor Giannola, grazie tanto. Buona serata. A presto, arrivederci.